L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo come ogni settimana qui dagli studi di Radio 24 per raccontarvi l'Europa nella sua attualità, non solo però l'attualità politica o economica, cerchiamo anche altri punti di vista e altri contributi. Ci trovate anche sulle nostre piazze virtuali, su Facebook, la pagina ufficiale è quella dell'Altra Europa, oppure su Twitter, il mio nome è Federico Taddia, ci potete come sempre scrivere e potete lì trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare minuto per minuto. È un programma in collaborazione con Euronet Plus, questo network di radio europee, e partiamo proprio da Euronet Plus perché il 19 presso il Parlamento Europeo a Bruxelles, davanti ai cittadini e alle autorità europee, tra i quali anche il presidente Martin Schulz, è stato lanciato il nuovo programma Euronet Plus, e a tal riguardo abbiamo intervistato un collega, Dominique Dolne, direttore della rete Arte BF, che è la radio televisione nazionale belga di lingua francese ed è membro del comitato editoriale di Euronet. Lo ha intervistato per noi Sergio Nava. Cet mercredi le network Euronet Plus a été lancé. Mercoledì scorso c'è stato il lancio ufficiale di Euronet Plus. Qual è oggi il significato di un network di questo tipo? Quando si è una rete, quando si è in molti, si è più efficaci che da soli. Questo è il principale vantaggio di una rete di radio. Ci si può scambiare le idee, i reportage, si può collaborare e avere più forza quando insieme si richiedono delle interviste, anche di politici. Si è più forti, insomma. Questa è l'idea globale. Al di là di questo, questa rete ha il merito di permettere a tutta una serie di radio di coprire l'informazione europea, che non è una materia coperta volentieri dai media. È una materia ritenuta difficile, poco interessante per il pubblico. E questa rete Euronet ha questa virtù di permettere a queste radio, con l'aiuto e il sostegno della Commissione, di produrre dell'informazione per gli ascoltatori. Dominique, pourquoi l'Europe fatigue? Perché l'Europa fa ancora così tanta fatica a comunicare e a farsi capire? Ci sono molte ragioni. Da una parte ci sono delle materie che sono a volte semplicemente complicate, che non sono tra le più facili da comprendere e che spesso le persone non hanno molta voglia di ascoltare. C'è anche il fatto che il potere europeo è lontano dalle nostre capitali, è lontano da Roma, da Parigi, da Berlino, da Londra, mentre la forza delle identità nazionali rimane molto presente nelle politiche dei differenti paesi. La gente, i cittadini europei, ancora non si sono appropriati dell'idea che una parte molto importante della politica non viene decisa nella loro capitale, nel loro Parlamento nazionale, ma a livello europeo. Tu ti occupi di informazione nazionale e anche di informazione europea. Lei si occupa sia di informazione nazionale che di informazione europea. Qual è la differenza più rilevante che nota nei due tipi di comunicazione? Ci sono molte intersezioni tra i due livelli? Posso parlare per RTBF. Noi cerchiamo, non so se ci riusciamo, di non fare delle differenze tra politica nazionale e politica europea. Proviamo a spiegare e a far capire ai nostri ascoltatori che la politica europea è un livello comparabile, differente, ma comparabile a livello nazionale, municipale e regionale, che è un prolungamento di questi differenti poteri e che è un potere politico importante come gli altri e che tutti vanno trattati allo stesso modo. Per questo noi abbiamo dei giornalisti specializzati e delle rubriche specializzate e facciamo un programma di informazione europea. Si può dire che noi cerchiamo di cancellare la frontiera tra l'informazione politica nazionale e quella europea. Questo è il nostro obiettivo editoriale. L'informazione europea è ancora un'informazione specifica a parte. È più difficile da spiegare. Ed è difficile far capire alle persone che è importante e che dovrebbe loro interessare. Per questo noi facciamo delle rubriche speciali per far capire questo messaggio alla gente. Il giorno che non ci sarà più bisogno di fare questi programmi specifici e che si potrà trattare l'informazione europea esattamente come l'altra informazione politica, vorrà dire che avremo vinto. Ma questo ha bisogno ancora di altro lavoro. E questo è il nostro obiettivo. Une dernière question, Dominique. Le 2013, c'est l'année des citoyens. Il 2013 è l'anno dei cittadini. Secondo lei, i cittadini dei 27 Stati membri oggi si sentono un po' più europei? Purtroppo credo di no. Credo che le difficoltà che conoscono molti paesi, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, un po' l'Italia e l'Irlanda, e le decisioni difficili che vengono da Bruxelles contribuiscano ad allontanare i cittadini dal progetto europeo. I cittadini si sentono meno europei di quanto non si sentissero qualche anno fa. Ad esempio, il Belgio è considerato un paese molto vicino all'Europa per tutta una serie di ragioni. Siamo un paese piccolo, abbiamo molto da guadagnare dall'Europa, abbiamo le istituzioni a Bruxelles. Ma la sfiducia è più forte ora che qualche tempo fa anche qui, nonostante noi non abbiamo una pressione forte come in altri paesi, perché abbiamo pochi problemi. Sfortunatamente questo è un periodo in cui risale il sentimento nazionale. Noi non possiamo che sperare che una volta che la crisi economica andrà meglio, una volta che la crisi sarà regredita, si possa rilanciare la macchina con dei progetti che suscitino più adesione da parte dei cittadini affinché si sentano più europei. Questo era Dominique Dolne. Tutte le informazioni su Euronet Plus le trovate sul sito euronetplus.eu. L'altra Europa. Questa è sempre l'altra Europa. Quella che state ascoltando è una parte dell'ultimo concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale con i musicisti in lacrime perché nella vicenda della chiusura dell'ERT, dell'emittente televisiva di Stato, sono coinvolte anche le orchestre sinfoniche. Stanno cambiando le notizie, ci sono decisioni anche dell'ultima ora, una vicenda molto controversa e anche piena di contraddizioni. Però volevamo avere anche un altro punto di vista e capire cosa vuol dire spegnere un canale televisivo, che non è solo appunto chiudere una rete, tagliare posti di lavoro, ma è soprattutto smorzare violentemente la cultura che è fatta di informazione, ma che è fatta di musica ed è fatta anche di balletto, per esempio. E quindi abbiamo voluto ritrovare qui all'Altra Europa Renato Zanella, che è il direttore del balletto dell'Opera Nazionale Greca. Ciao Renato, buon sabato e ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Ci siamo sentiti qualche mese fa, parlavamo di crisi e parlavamo del tuo lavoro importantissimo che continuavi e che continui a fare lì in Grecia. Adesso la situazione è peggiorata ancora? Purtroppo sì, è peggiorata ancora, anzi è arrivata notizia adesso shock dell'ultimo minuto che la finanza è entrata ieri in un teatro più prestigioso di Atene, che è il Megaron, e ha sequestrato tutti i contanti che avevano dentro e hanno messo praticamente in ginocchio l'amministrazione. C'è una riunione di emergenza adesso tra la direzione e il personale, e sto aspettando le notizie, una cosa che è terribile, non ho mai sentito una cosa del genere. E in conseguenza questa chiusura del canale televisivo, che giustamente dice non è soltanto la televisione, ma era anche il nostro polmone, perché informava sulle nostre attività. Noi siamo anche una attività, cioè apparteniamo anche noi allo Stato, siamo l'Opera Nazionale, quindi era un nostro partner, collaboratore, un diffusore, e adesso siamo un po' con il fiato sospeso. Ecco. Mm-hmm. Voi come appunto balletto dell'Opera Nazionale siete stati coinvolti direttamente da questi tagli recenti, da queste ultime decisioni? Sì, c'è stato un taglio del netto di un terzo del budget a gennaio, Fortunatamente la nostra direzione, il nostro direttore artistico ha continuato la produzione, abbiamo degli ottimi incassi e, come anche dissi la volta scorsa, viviamo con l'incasso, noi, praticamente. Le sovvenzioni che abbiamo adesso sono praticamente gli stipendi degli impiegati, dei lavoratori. Quindi abbiamo, su questo punto di vista, lavoriamo, andiamo avanti. Altri teatri, come quello che dicevo, appunto il Megaro, non avendo un'orchestra, un organico stabile, ha problemi più gravi, e questo è stato per l'inizio di una serie un po' preoccupante. Mm-hmm. Ecco, ma la chiusura di questa orchestra potrebbe avere ricadute su di voi? Voi collaborate, immagino? Beh, noi abbiamo l'orchestra di Stato, sono tre, mm-hmm. e noi abbiamo quella che è stata decisa di seguire l'opera, ecco, non è la nostra orchestra, è sempre un'orchestra di Stato, che però è rimasta inattivo. Colleghi, infatti erano anche i nostri musicisti su alla radio, c'è stato un concerto prima di quello che annunciavi, l'ultimo concerto, è stato un concertone all'esterno della struttura, che hanno partecipato, infatti è stato uno sciopero dell'ultima produzione dell'Olandese Volante, sì. all'Herodeaticus, che appunto è stato sospeso perché in solidarietà a chiusura sono andati a suonare assieme a loro. Il coro anche si è fermato. Adesso non abbiamo spettacoli in questo periodo, però stanno cercando di aiutare i colleghi della televisione. Sono notizie che continuano a sovrapporsi da in ora in ora. Non so, perché non qui hanno tutti paura di un ritorno a una dittatura, se vogliamo, qualcosa che non ha riscontri nella storia degli ultimi anni, quindi non sappiamo. Io stesso, che insomma, in italiano forse conosco le nostre vicissitudini, però non ci chiediamo cosa arriverà ancora. Questa mm-hmm. Certo. La preoccupazione. Renato, dal punto di vista professionale, che se è possibile fare previsioni, che estate vi attende? Noi andiamo avanti con il nostro programma, abbiamo la fortuna di essere indipendenti come organico, sì. Come dicevo prima, noi siamo adesso in tournée con il balletto a Nafpion, mi trovi qui in una zona molto bella, un teatro all'aperto, quindi andiamo avanti e abbiamo produzione ancora del Madama Butterfly, di opera contemporanea, noi produciamo perché non abbiamo appunto i costi che hanno le altre attività. Poi, ripeto, lo shock grande è questa entrata della finanza al Teatro Megaron, con il quale noi collaboriamo e abbiamo produzioni che creiamo insieme. E, non so, mi trovi molto nervoso, non una voce positiva come l'altra volta, capissimo. Però ecco, è questa continua un pochino a aspettare di capire cosa hanno detto oggi a loro, che percorso ci saranno, succederà la stessa cosa che con noi, che entrerà la Firenze domani mattina, non lo so, questa è un po' noi come gruppo artistico andiamo avanti e cerchiamo di mantenere il programma com'è, tenendo conto di andare avanti anche se ecco, magari non arriverà lo stipendio a mese o certo. Non so, è un po' se potessimo paragonarla a qualcosa che è successo di più, però in questo momento veramente è ogni ora qualcosa sta succedendo. Renato, grazie davvero, in bocca al lupo a te e a tutto il tuo gruppo di lavoro. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Grazie, a presto. Ciao Renato, buon sabato. Europost-it. Una vignetta per l'Europa. Fumettisti d'Europa, questo concorso è per voi. Si tratta del concorso Una vignetta per l'Europa, promosso dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con il sito presseurope.eu e il settimanale internazionale. Il premio nasce per sensibilizzare i vignettisti sui temi europei anche attraverso l'uso dell'ironia e stimolare l'interesse dei cittadini per la vita politica dell'Unione. Per partecipare è sufficiente aver pubblicato una vignetta a tema europeo su una testata professionale, cartacea o online, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2012 e il 24 giugno 2013. per i primi tre classificati in palio premi da 1.000, 1.500 e 2.500 euro. Per saperne di più, andate su ec.europa.eu/Italia. Sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Ô Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des étrangers. E abbiamo chiesto aiuto a Riccardo Coccianti, al suo Notre Dame de Paris, per introdurre il prossimo argomento. Vi vogliamo infatti segnalare un importante testo che è stato presentato in settimana ed è la versione in arabo del nuovo glossario dell'Unione Europea sull'asilo e la migrazione. È stato presentato a Roma, è stato realizzato a cura della Rete Europea per le Migrazioni. Uno strumento fondamentale perché... Vi faccio solo un esempio. In arabo non esiste il concetto di asilo politico e quindi è difficile esprimere un concetto se poi non ci sono le parole giuste. E questo testo nasce proprio con questa finalità, per capire perché è nato e per capire quelle che sono appunto le caratteristiche principali. Abbiamo invitato Michele Cercone, portavoce della Commissaria Europea per gli Affari Interni, Cecilia Malmström. Ciao Michele, ben ritrovato. Buongiorno, salve. Buongiorno. Un glossario, quindi uno strumento assolutamente operativo e che risponde a una necessità reale. Certo, la necessità è quella di tendere una mano, di aprirsi a un orizzonte diverso, che è quello finalmente di raggiungere anche le persone che parlano in arabo e che hanno bisogno di avere informazioni, che hanno bisogno di avere dettagli, che hanno bisogno di conoscere esattamente qual è la realtà istituzionale e giuridica che nel campo dell'integrazione, della migrazione e dell'asilo esiste nell'Unione Europea. Come ricordavi, una materia di grande complessità perché non sempre i termini sono traducibili immediatamente, sovrapponibili, anche perché i concetti stessi spesso differiscono. Quindi un lavoro certosino fatto anche attraverso degli specialisti e che comprende circa 300 termini complessivamente, si va dalla A di accoglienza alla X di xenofobia e secondo me questa finestra, questa forbice dà quasi tutta già l'idea di quanta varietà e di quanta importanza di termini si trova all'interno di questo glossario. Integrazione è comunque la parola chiave di questo glossario perché, come hai detto tu, è proprio un venirsi incontro. È uno strumento necessario per capirsi meglio. Esiste in tutte le lingue dell'Unione Europea il glossario. La carenza era quella proprio che, essendo dedicato a tematiche molto specifiche che riguardano per la maggior parte dei cittadini di paesi terzi, non esisteva il canale diretto di accesso anche per chi le lingue dell'Unione Europea non le parla o anche per chi ha un'altra tradizione linguistica e culturale. Quindi direi davvero un ponte che si estende poi verso due regioni, perché anche all'interno della tradizione araba le differenze culturali sono abbastanza rilevanti, quindi è stato necessario fare un lavoro e mettere insieme due esperti, uno più centrato sulla regione del Maghreb, che è quella del nord-ovest africano, Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, ma anche un esperto nella regione del Mashrek, che è quella a est dell'Egitto e a nord della penisola arabica, proprio perché le differenze di concetti sono diverse. Da un lato abbiamo un mondo più improntato verso una cultura francofona, quindi certi concetti sono più familiari, dall'altro invece spesso è una cultura che ha bisogno che certi termini vengano slegati, spiegati, a volte parafrasati per poter essere compresi. Glossario asilo e migrazione realizzato dalla HEMN, che ricordiamo è la Rete Europea per le Migrazioni. Un grazie a Michele Cercone, alla prossima. Ciao Michele. Grazie, alla prossima. Buon sabato. Adesso un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Europa, ho qualcosa da dirti. Quali sono le tue aspettative verso l'Europa? Che cosa avresti da dire all'Europa? Se riesci a sintetizzarlo in uno scatto fotografico, questo concorso è per te. Il concorso Europa o qualcosa da dirti è organizzato dal gruppo PSE del Comitato delle Regioni e vi può partecipare chiunque risieda nell'Unione Europea e abbia compiuto 18 anni e che abbia l'hobby della fotografia ma che non sia fotografo professionista. La foto può illustrare un esempio di come costruire assieme l'Europa, di cosa voglia dire essere un cittadino europeo, oppure di come voi intendiate il vostro ruolo in Europa. Avete un'immagine in testa? Allora prendete la macchina fotografica, perché c'è tempo solo fino al 30 giugno. Trovate regole e informazioni cercando Photo Competition su pes.cor.europa.eu. L'altra Europa. Mota post ansimul wet mota spacecraft zangoche mota thirstle anwa agus dolly eyebrowwa nila horu orchart ashkhon no khmishun orpui. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Ci trovate su Facebook, nella nostra pagina ufficiale, oppure su Twitter, sul mio account personale. Quello che state ascoltando è l'audio di un video che insegna come tradurre dal gaelico la lingua irlandese, che è una delle lingue ufficiali dell'Unione. Perché? Perché andiamo a parlare di traduzione. Lo sapete, con l'altra Europa ci piace raccontare l'Europa, anche l'Europa delle opportunità. E quella che vi andiamo a presentare oggi è una bella opportunità, che è quella di diventare traduttore della Commissione europea. C'è un bando imminente, ne stanno dando notizia proprio in questi giorni, quindi volevamo capire bene di cosa si tratta e anche come funziona questo lavoro, che ha degli aspetti assolutamente affascinanti. E quindi con noi c'è Laura Boselli, antenna della traduzione presso la rappresentanza in Italia della Commissione europea. Ciao Laura, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie, ben trovato. Come stai? Bene, benissimo. Allora, un lancio ufficioso, perché il lancio ufficiale, se ho ben capito, verrà fatto tra una decina di giorni. Esatto. Cosa c'è in ballo? Allora, in ballo c'è l'opportunità di fare carriera presso le istituzioni europee e nella fattispecie di intraprendere una carriera come traduttore della Commissione europea o di un'altra istituzione dell'Unione europea, appunto. Il bando, come tu hai detto, è imminente, infatti verrà pubblicato l'11 luglio e ci sarà all'incirca un mese di tempo per candidarsi, perché le candidature saranno aperte fino al 13 agosto. Perfetto, allora per ora la notizia la potete trovare su Facebook, dove c'è una pagina aperta e la trovate digitando concorso per traduttori di lingua italiana. E il bando ufficiale invece verrà pubblicato sulla vostra pagina internet. Ce la vuoi ricordare tu l'indirizzo? Allora, la pagina ufficiale dell'ufficio di selezione del personale è eu-careers.eu. Sì. Perfetto, poi metteremo i link nelle nostre piazze, certo, virtuali. Laura, che caratteristiche bisogna avere? Quali sono i requisiti richiesti? Allora, i requisiti, innanzitutto un diploma di laurea, quindi aver completato un ciclo universitario completo almeno triennale, quindi è sufficiente il diploma triennale. Non occorre avere esperienza lavorativa e soprattutto il diploma non deve essere necessariamente in lingue straniere o in traduzione o in discipline di questa area, può essere anche un diploma, una laurea in altri settori, anche tecnici o economici, purché ovviamente si possa dimostrare di avere un'ottima conoscenza della lingua italiana, un'ottima conoscenza di almeno due altre lingue ufficiali dell'Unione Europea e ovviamente avere una grande inclinazione per la traduzione, insomma saper tradurre bene. La sede di lavoro è in Italia, a Roma? No, perché la sede di lavoro dei traduttori sono due in realtà, i traduttori sono divisi tra Bruxelles e Lussemburgo. Quindi la sede per i candidati, diciamo, che supereranno il concorso sarà una di queste due, o Bruxelles o Lussemburgo. Laura, questo è un po' l'identikit ufficiale, poi raccontaci anche il dietro le quinte, ma com'è in verità il lavoro del traduttore? Allora, il lavoro del traduttore è molto interessante, banalmente, ma è vero, nel senso che tradurre soprattutto in questo contesto, perché è un tipo di traduzione un po' particolare, non è simile alla traduzione letteraria o alla traduzione tecnica magari in altri settori, è un tipo di traduzione particolare, perché noi in realtà traduciamo testi di qualunque argomento, perché traduciamo i testi prodotti dall'Unione Europea e, come sappiamo, le politiche europee coprono quasi tutto lo scibile umano, quindi si possono tradurre cose estremamente tecniche, scientifiche difficilissime, o testi più divulgativi destinati ai cittadini, o testi proprio anche brochure destinati, che ne so, ai bambini, quindi con un linguaggio tutto particolare. Quindi per un traduttore credo che dia enorme soddisfazione, appunto perché si possono testare, insomma, mettere in pratica proprio abilità di una gamma molto vasta. Mm-hmm. Poi ricordiamo tra l'altro che tra i compiti della Direzione Generale Traduzione non c'è appunto solo quella della mera traduzione di documenti ufficiali, ma c'è proprio anche il rafforzare il multilinguismo all'interno dell'Unione Europea, quindi ci sono proprio attività mirate a questo. Sì, certo, infatti noi promuoviamo varie iniziative. Allora, da un lato cerchiamo il più possibile di promuovere lo studio delle lingue presso anche proprio i molto giovani, i ragazzi molto giovani, e ogni anno lanciamo un concorso che si chiama Juvenes Translatores per ragazzi. Sì, certo, abbiamo intervistato spesso i vincitori. Esatto, quindi per avvicinarli sia alla traduzione, magari per chi proprio non ne abbia alcuna idea, ma in generale per farli un po' anche innamorare un po' delle lingue. E cerchiamo, insomma, di anche ad altri livelli, ovviamente nel settore delle imprese, cerchiamo proprio il più possibile di far capire che ormai, voglio dire, le competenze linguistiche non sono più un lusso, non sono un accessorio, un qualcosa in più, ma sono veramente imprescindibili al giorno d'oggi. Anche da punti di vista particolari, come quello che è l'oggetto del convegno di venerdì prossimo, se non erro. Esatto, infatti un'altra nostra attività, in particolare del Dipartimento Italiano, è stata già diversi anni fa creare una rete che si chiama Rete per l'Eccellenza dell'Italiano Istituzionale, creata in collaborazione con ad esempio l'Accademia della Crusca in Italia, docenti universitari, ricercatori, specialisti, traduttori, per promuovere l'uso di una lingua italiana chiara e corretta nei testi ufficiali istituzionali, insomma in favore della trasparenza e dell'accessibilità della comunicazione istituzionale presso i cittadini. E organizziamo un convegno qui a Roma presso la sede della rappresentanza, in particolare in questo caso dedicato all'italiano che si parla al di fuori dei confini italiani, quindi l'italiano istituzionale, ma non solo, in realtà anche dei media e della comunicazione, in Croazia, in Slovenia e in Svizzera, ovviamente con esperti di tutti questi paesi. Tutte le informazioni ovviamente sul sito della Commissione Europea, europa.eu/Italia. Un grazie a Laura Boselli, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao Laura, grazie. Grazie mille a voi, ciao. Europost-it. L'integrazione linguistica secondo il Consiglio d'Europa. È online il nuovo sito del Consiglio d'Europa dedicato all'integrazione linguistica dei migranti adulti. Gli obiettivi dichiarati della piattaforma sono la condivisione di esperienze politiche e pratiche, l'assistenza e un sostegno concreto agli Stati membri per incoraggiare le buone pratiche nell'organizzazione di corsi di lingua efficaci e nella valutazione delle competenze linguistiche dei migranti. Particolare attenzione è rivolta ai contesti dove sono in vigore test obbligatori. Il sito riporta inoltre i risultati delle inchieste del 2008 e del 2010 sulle misure che vincolano la concessione ai migranti di permessi di soggiorno, lavoro o cittadinanza al possesso di determinate conoscenze linguistiche. A breve, il Consiglio d'Europa lancerà la terza inchiesta sulle politiche linguistiche e di integrazione per i migranti adulti. Per maggiori informazioni, collegatevi al sito hub.coe.int e cercate il programma LIAM. Questi sono i nostri Europost-it. Come sempre vi ricordo che potrete riascoltarli dal nostro sito radio24.it e lì trovare anche tutti i link relativi agli argomenti toccati. Rimaniamo in tema di Consiglio d'Europa. Più volte abbiamo parlato degli itinerari culturali previsti, lanciati dal Consiglio d'Europa, che sono quegli itinerari che cercano così di raffigurare, di essere una dimostrazione concreta dei principi fondamentali del Consiglio d'Europa: i diritti umani, la democrazia culturale, la diversità, il dialogo, lo scambio. E tra questi itinerari ne abbiamo anche affrontato, abbiamo camminato insieme a dei pellegrini. Beh, prendendo questo spunto, abbiamo sfogliato il programma del Festival del Mondo Antico, si è aperto ieri a Rimini fino al 23 giugno, strada facendo, 2200 anni di Via Emilia, questo è il titolo di questi tre giorni. tanto spazio dato alla Via Emilia, che è un po' una delle colonne portanti del nostro paese, però domenica, domani, alle ore 19, presso il Museo della Città, c'è un convegno intitolato Il Cammino di Annibale, percorso della rotta dei Fenici, un itinerario culturale proposto al Consiglio d'Europa, una sorta di aggiornamento. Con noi c'è un esperto in materia non solo di Annibale, ma di tutte le vicende legate anche agli itinerari culturali. Diamo il benvenuto a Gianni Brizzi, professore ordinario di storia romana dell'Università di Bologna, specialista di storia romana e di storia annibalica. Buongiorno Brizzi. Buongiorno. Buongiorno, lei sa tutto di Annibale? Abbastanza. Quando è che si è innamorato di Annibale? Come nasce un amore di questo tipo? Ho cominciato a scriverne più di 30 anni fa. Quindi... Più di 30 anni fa il mio primo libro toccava i comportamenti di Annibale in Italia, la sua venuta in Italia, e poi non l'ho mai abbandonato. C'era poi dietro il lavoro del mio maestro Giancarlo Susini. Mm-hmm. Ecco, e cosa c'entra Annibale con gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa? Stiamo tentando di varare una costola della rotta dei Fenici e stiamo pensando di coinvolgere in un altro degli itinerari che forse interessano in questo momento molto il Consiglio d'Europa, cioè itinerari che coinvolgano il Mediterraneo e coinvolgano l'altra sponda del Mediterraneo. Quindi in sostanza per il momento stiamo pensando a tre paesi, quattro paesi, Tunisia, Spagna, Francia e Italia. Ecco, cioè da Cartagine a Cartagine passando per l'Italia, per la nostra Italia, insomma. Annibale ci è venuto. Ci è venuto, ci è passato e ha lasciato anche il segno. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, antico.comune.rimini.it, questo è il sito del Festival del Mondo Antico fino a domani, 23 giugno, strada facendo 2200 anni di Via Emilia, ma noi stiamo parlando di questo itinerario, di questo cammino di Annibale insieme a Gianni Brizzi. Brizzi, qual è l'itinerario ideale in chiave europea? Qual è questo percorso che va valorizzato? Dunque, il percorso è un percorso che parte in pratica da Cartagine, passa dal sud della Spagna, da Cadice e Gades, viene su lungo le coste, supera i Pirenei, traversa la Francia meridionale fino ai passi alpini, probabilmente il gruppo del piccolo Moncenisio, e poi scende attraverso l'Italia fino praticamente all'estremo sud, fino a Crotone, fino a dove Capo Colonna segna il punto del santuario di Hera Lacinia, il punto della costa meridionale da cui Annibale poi è tornato in Africa. Mm-hmm. Si parla tantissimo di connessione. Attualmente quando si parla di connessione si pensa alla rete, questa rete che rende tutto molto più vicino, molto più veloce. Queste antiche strade, adesso quella di Annibale, ma come tutti gli altri itinerari culturali, lei da storico come le considera? Sono ancora dei collanti tra culture, tra i popoli, tra nazioni? Lo sono senz'altro, anche perché in genere non sono delle semplici linee, sono dei fasci. Cioè attorno a queste linee ci sono dei fasci culturali, e i fasci culturali rappresentano anche, diciamo così, delle esperienze o dei modelli paralleli alla linea principale, per esempio tutto quello che è l'antica cultura classica, l'antica per il mondo annibalico, l'antica cultura classica, il mondo connesso, persino le invenzioni degli eruditi cinquecenteschi che hanno visto Annibale anche là dove non è mai stato, ma rappresentano uno straordinario fascio di tendini culturali, se mi passa l'espressione. Una bellissima immagine. Grazie davvero Brizzi, complimenti per il lavoro, in bocca al lupo per il convegno di domani. Crepi, grazie. Buon sabato. So don't ever call E adesso è il momento, come in ogni puntata, di dedicarci a quello che è lo spirito europeo, a quello che è il sentimento che ci accomuna, sentimento che si nutre anche e soprattutto di cultura. In questo caso la cultura è la musica. Con noi c'è un artista che ieri ha suonato sulla Torre Eiffel, questa sera invece sarà a Madrid all'ottava edizione del Dia della Musica, che è una manifestazione molto importante in Spagna e fa parte del circuito dei festival europei. Diamo il benvenuto a Raffaele Gualazzi. Ciao Raffaele, buon sabato. Ciao a tutti, ciao. Hai scelto l'Europa come palco in questo periodo della tua carriera, del tuo tour estivo. Con che spirito affronti l'oltreconfine, l'andare a suonare, a cantare in paesi diversi dal tuo? Ma sono veramente molto contento e soprattutto curioso di conoscere, interagire con nuove culture, magari trarre ispirazione da qualche nuova esperienza musicale e anche nelle collaborazioni. Tu conosci bene la Francia perché insomma hai avuto molto successo in quella nazione. Ieri l'emozione della Torre Eiffel, oggi Madrid in questa giornata della musica, che è una giornata molto attesa dal popolo spagnolo. Credo che siano per un artista sensazioni molto forti. Ma a te la parola Europa cosa suscita? Secondo me è una bellissima occasione di potersi incontrare nella musica, per esempio, che è l'arte di cui mi occupo io, insomma, è il mio lavoro, è la mia passione. Ci sono tante altre maniere e sicuramente vedere così tante nazioni che si uniscono sotto il segno della musica è una cosa molto bella. Mm-hmm. E poi appunto c'è la contaminazione. Tu quando componi hai le antenne puntate anche oltre confini? Immagino sì, perché per fortuna la musica non conosce i confini. Sì, assolutamente. Io sono sempre molto contento di fare dei progetti dove, come ad esempio è stato quello con la WDR Orchestra, praticamente l'orchestra, la brass, diciamo, di Stato della radio televisione tedesca, che ha rivisitato proprio un annetto fa tutto il mio repertorio di reality and fantasy, e poi abbiamo suonato anche altri standard internazionali arrangiati da Michael Abene, che è questo arrangiatore italo-americano, e abbiamo suonato al Piano Festival di Bochum e al Jazz Festival di Bonn. Questa sera quindi a Madrid, e poi il 6 luglio al Festival dei Due Mondi, poi un tour estivo, l'Happy Mistake Tour. Si parte il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, si chiude il 22 agosto a Marina di Pietrasanta. RaffaeleGualazzi.com, il sito ufficiale. Raffaele, ti sei già preparato per questa sera? Hai preparato un saluto in spagnolo? Adesso me lo farò insegnare probabilmente, perché sono un po' ignorantino. Va bene, comunque lascerai parlare la musica, giusto? Sì, diciamo così. Ciao Raffaele, buona musica e buona Europa, grazie per essere stato qua con noi. E andando a Madrid chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa, un grazie a Margherita Ina e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento come sempre è a sabato prossimo, ci trovate su Facebook, su Twitter, il mio account è Federico Taddia, la puntata la potrete riascoltare e scaricare dal nostro sito radio24.it. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ciao!